Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e buona serata calcistica, visto che stasera, mercoledì 2 maggio, e quindi ultimo turno infrasettimanale di campionato, sono in palio, è in palio tutto, quindi lo scudetto, il terzo posto, i piazzamenti per l'Europa League, per quel che vale, e anche la salvezza. Quindi insomma, è la stretta finale, è la prima delle ultime tre giornate di campionato che daranno tutti questi verdetti. Giornata che si è aperta ieri, come sapete, con il pareggio nell'acquitrino di Verona tra Chievo e Roma, e poi con la vittoria serale del Napoli sul Palermo, che qualche reazione da parte palermitana l'ha suscitata per via di un calcio di rigore molto discusso, e secondo me invece, a velocità normale assolutamente da assegnare, ma anche rallentata a velocità normale sicuro. In ogni caso, comincerei in attesa dei vostri interventi e dei vostri commenti, come sempre all'800240024, comincerei con qualche commento proprio a questa partita che ha aperto le ostilità della terz'ultima giornata per quanto attiene a uno degli obiettivi, e cioè a quello del terzo posto. Sentiamo Mazzarri. Noi bisogna cercare di affrontare le prossime due partite come abbiamo fatto oggi. Ora abbiamo riacquisito delle qualità anche mentali, delle energie fisiche, stiamo meglio e bisogna pensare a quello e basta. La favorita in questo momento è la Lazio, perché per esempio nei nostri confronti se le vince tutte o comunque fa gli stessi risultati nostri, arrivano loro terzi, quindi da un punto di vista proprio matematico. Le altre, se noi facciamo il percorso che facciamo, hanno gli scontri diretti in sfavore, ecco. La Lazio è la favorita, il destino l'ha nelle proprie mani, e se fa i punti che fanno gli altri, compreso noi, passano loro, cioè arrivano loro terzi. Arrivano loro terzi, se arrivano terzi Lazio e Napoli, mentre se invece arrivano terzi in più squadre, la Lazio non è la favorita. Beh, insomma, comunque ciascuno la vede dalla propria angolazione. Per il Napoli, che è in svantaggio soltanto con la Lazio nei confronti diretti, insomma, in fondo è ammissibile che Mazzarri la veda così, e cioè che l'obiettivo del Napoli sia far la corsa sulla Lazio, quindi cercare di arrivare alla fine con un punto in più sulla Lazio, visto che è per l'appunto quella con cui è in saldo negativo. Vi dicevo di quel calcio di rigore che ha fatto molto arrabbiare i palermitani, anche Bortolo Muti, l'allenatore, che è una persona molto, molto educata e in genere molto, molto controllata, ieri sera non l'ha presa assolutamente bene, soprattutto a caldo, ma poi un pochino anche a freddo. Dopodiché è entrato in scena il grande Zamparini stamane, ed eccolo ai microfoni. Ma io ieri sera ero avvilito, io farò certificare da un ex arbitro nazionale e da uno internazionale tutto, e l'incaricherò di certificare tutte le partite dell'anno scorso e di quest'anno del Palermo. Ma sa perché è peggiorato? Perché quando c'era Calciopoli le istituzioni controllavano il sistema arbitrale. Oggi, e lo dico da tanto tempo, ma non ce l'ho col sistema arbitrale, ce l'ho col sistema in generale. Non può un sistema arbitrale essere indipendente da qualsiasi controllo. Oggi lo è. Vabbè, e questo era giusto per dare uno spaccato, no? Perché insieme a calcio vero e proprio, anche un po' di folklore, secondo me non guasta mai. Per rifarsi la bocca da Zamparini, vi propongo un ragazzo di 26 anni che si chiama Giuseppe Gambaiani. Allora, Giuseppe Gambaiani fa il portiere, vediamo se riesco a leggere giusto il nome di questa squadra, si chiama Tutta Vista Galtelli, ed è una squadra di seconda categoria che gioca in provincia di Nuoro. Perché è salito alla ribalta delle cronache, adesso senza esagerare, ma insomma, perché è pescato questa notizia, questa curiosità? Perché succede che partita decisiva, penultima giornata, è lui che racconta, e noi del Tutta Vista Galtelli siamo in coda a tre punti dalla penultima, insomma, io sono il portiere, mi arriva un tiro dal fondo, mi tuffo per intercettarlo, ma scivolo verso la porta e la palla entra di 50 centimetri buoni, la tiro fuori, rinvio, l'arbitro fa proseguire, tumulti, uno degli avversari viene espulso, eccetera eccetera. Mi si avvicina l'arbitro e mi chiede: portier, era rete? E io ho risposto di sì, perché non sono riuscito a dire una bugia. Alla fine uno sport, e gli ho detto: arbitro, era dentro di mezzo metro. A questo punto di questa intervista, che non so dove e come Franco Piantanida sia riuscita a rimediare, ma che ho qua sotto gli occhi, la domanda successiva è la sua carta d'identità, e lui risponde: Giuseppe Gambaiani. Intanto già nome e cognome, non cognome, Giuseppe Gambaiani, 26 anni, fidanzato. E poi aggiunge: ho la fortuna di lavorare, faccio l'operaio edile 8 ore al giorno, poi gioco in porta, con la mia autodenuncia siamo andati sotto 2-0 e poi è arrivato 2-1, ma non è bastato e siamo retrocessi in terza categoria, vuol dire che ci sarà più gusto quando risaliremo. Allora io mi permetterei di segnalare questo nominativo alla Fiorentina, in particolare a Gianfranco Teotino, che è il responsabile della comunicazione. Perché? Perché la Fiorentina ha qualche mese ha varato un'iniziativa che si chiama Cartellino Viola e che premia mensilmente il miglior gesto di fair play che viene compiuto sui campi, immagino di ogni categoria. Mi è molto piaciuto che il mese scorso questo premio non sia stato assegnato. Questa è una garanzia, secondo me, di serietà, perché vuol dire che ci sono delle volte in cui un premio non merita di essere assegnato. Magari non venissero assegnati i premi alla memoria di eccetera eccetera, che spesso e volentieri finiscono con certe assegnazioni per inquinare il ricordo della persona che si vuole celebrare. In questo caso mi pare che Giuseppe Gambaiani, fidanzato, operaio edile, 8 ore al giorno di lavoro e poi portiere in seconda categoria, mi sembra che questo premio lo potrebbe meritare. La fonte, cioè il quotidiano da cui è stato estrapolato questo frammento, è la nuova Sardegna. Torniamo, non a Zamparini per cortesia, torniamo al commento divertente di Luis Enrique ieri dopo il non divertente, ma di più non si poteva fare, 0-0 di Verona. È stata una bella partita di pallanuoto, ma è stata bellissima, una partita, eppure che non ci sono stati dei gol, ma è stata una partita di pallanuoto bellissima. Per quanto riguarda questa partita, ho visto due squadre che ci hanno messo tutto per vincere di questo, e questo era giusto al limite della legalità, perché non penso che nessuno abbia disfrutato, no? Che si sia divertito, ma non penso che nessuno, e così è difficile. Oh, ha detto della legalità, perché insomma l'italiano lo sta imparando, voleva dire ovviamente del regolamento, legalità in quel senso lì, questo è abbastanza evidente. Luis Enrique direi che ha imparato abbastanza bene l'italiano e ormai lo parla in maniera quasi sempre appropriata. Quello che non sappiamo è se avrà la possibilità di approfondirlo ulteriormente nella prossima stagione, e la sensazione mia è che non abbia intenzione lui innanzitutto di approfondire ulteriormente questa esperienza, ma vedremo come andrà a finire. Poi c'è stato sempre per riassumere la giornata di ieri, questa sorprendente uscita di Antonio Conte con un parallelo abbastanza singolare rispetto al Verona 85. Sentiamo. Penso che questo sia uno scudetto paragonabile forse allo scudetto del Verona, perché io non dimentico, noi non dimentichiamo da dove arriviamo. Parlerò nel momento in cui il campionato sarà concluso, al di là della vittoria e della sconfitta. Dirò qualche chicca, una ve la posso anticipare, no? Cioè, si parla tanto del confronto diretto, ma dopo il confronto diretto noi siamo arrivati a giocare due partite a -7 dal Milan. Se l'è dimenticato qualcuno? Non mi sembra che noi poi siamo messi davanti a frenare la corsa del Milan. Vabbè, anche qui varia umanità e varie amenità. Poi sentiamo magari l'opinione di uno che in quel Verona dell'85 c'era e che tra l'altro è di scuola Juve, come Nanu Galderisi. Dicevo di questa, ma non replica a Conte, perché non è questo, semplicemente di questo parere, questa osservazione in proposito di Nanu Galderisi, che tra l'altro oggi allena la Triestina. Quando penso si parla della Juventus è già un discorso diverso, assolutamente credo che sia impossibile, ecco perché si parla di miracolo. Sarebbe bello vedere una squadra provinciale, con tutto rispetto per vedere una squadra fare un miracolo del genere, ma credo che per il calcio di oggi sia veramente difficile, perché le potenze sono sempre più forti, anche se quel tempo c'erano. Ci vorrebbe un altro Bagnoli, forse ci vorrebbe, non lo so, ci vorrebbero delle cose che adesso sono difficili da intravedere. insomma, la sostanza è che è vero che la Juventus lo scorso anno è partita da, cioè quest'anno è partita da settima, no? Perché questo era il piazzamento della stagione scorsa. È vero che ha fatto un campionato straordinario, è vero che ha giocato un gran calcio, è vero che ha fatto soprattutto un miglioramento rispetto allo scorso anno impressionante. Tutto questo è vero, e nei fatti bastano gli occhi per vederlo. Da lì a paragonarsi al Verona dell'85, beh, insomma, io credo che le differenze tra uno squadrone metropolitano e una squadra di provincia non siano così facilmente colmabili da nessun punto di vista. Mi viene in mente, per esempio, che quel Verona dell'85 comprò Elkjær e Brigel, che erano due grandi giocatori di allora. Ma mi viene in mente che la Juventus di quest'anno è sotto i 95 milioni di euro, e quindi, insomma, a sua volta qualche investimento più di quel Verona forse l'ha fatto. Roberto ha chiamato da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Okay. Senta, l'ultima analisi che ha fatto, per conto, perché io le volevo dire un'altra cosa, comunque, piuttosto di parlare del Verona 85, parli dei premi a vincere del 73. Ma detto questo, e qualcuno capirà, volevo dire che gli ho già detto in una scorsa telefonata mia che Allegri si è dimostrato comunque mediocre, ma tanti infortuni, e comunque non abbiamo giocato bene. La Juventus, c'è da chiedersi come mai sta correndo così tanto. Non vorrei che un giorno venisse fuori qualcosa, perché questa sta correndo dal primo giorno di agosto dell'anno scorso. Sei d'accordo? Detto questo, ma capita, Roberto, la ringrazio, sono graditi i saluti. Capita che una squadra che gioca a calcio e che voglia vincere il campionato corra da agosto fino al maggio successivo. Capita a maggior ragione se questa squadra non ha impegni di coppa infrasettimanali, ma non capita soltanto in Italia, capita in Germania, capita in Spagna, capita in Inghilterra, capita in Francia. Poi certo, se si odia una squadra, quello che colpisce è quanto corre quella squadra, e direi nel caso della Juventus di quest'anno quanto corra bene, perché poi corre anche in maniera razionale. Io sono lieto che lei si sia fatto risentire, l'ha detto lei stesso, dopo un po' di tempo. Se anche volesse da ora in poi diradare un po' di più gli appuntamenti, non si faccia scrupoli di farlo. Andrea, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Guardi, io ieri, primo maggio, sì, ho fatto festa da tutte le trasmissioni sportive, nel senso che non ho guardato calcio fino alla sera, ho visto la partita del Napoli, sì, e ho avuto modo di ascoltare l'intervista di Mutti, che dopo uno sfogo, devo dire, poi si è comportato veramente da gran signore. Dopo quell'intervista ho avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Conte. Ecco, io dico, ma c'è gente nel calcio che sa perdere, però c'è gente nel calcio, nel nostro calcio, che non è capace di vincere. Che bisogno aveva Conte di tirare fuori quelle dichiarazioni? Non capisco, non ne vedo il motivo, perché bisogna fomentare gli animi. Ma e pensi che se ha sentito questa sintesi che noi abbiamo fatto stamattina, lui ha detto che sta aspettando, no, il momento corretto per poi togliersi qualche sassolino. Quindi credo che andrà oltre, e credo che, come sempre in questi casi, ci sia una difesa fantastica, che è quella di Spegna nel 90esimo. Ma no, non parlo solo di Conte, parlo di chi esagera, parlo di chi... perché un conto è legittimamente rivendicare i propri meriti. I meriti di quest'anno di Conte sono, non dico enormi, ma quasi, e di Conte e della Juventus, intendiamoci, perché poi anche nel caso di Conte vanno sempre in campo i giocatori e sono loro che decidono. Però è vero che quest'anno nella Juve la mano del tecnico si è sentita più che non in altre occasioni o in altre squadre e in altre circostanze. Poi insomma, il calcio di oggi, nel calcio di oggi, lei dovrebbe saperlo, ormai dovrebbe averlo imparato, che l'importante è esagerare, no? Ed è chiaro che, insomma, è abbastanza evidente. Conte ha un po' la tendenza dialetticamente a esagerare. Nel prossimo breve periodo, cioè quando davvero l'accoglierà, vedrà che troverà il modo di andare oltre le esagerazioni di ieri. Massimo da Bologna, buongiorno. Buongiorno Granzini, lei mi ha un po' rubato la risposta, ha già spiegato quasi tutto, volevo parlare delle dichiarazioni di Conte. Sì. Lui ha sicuramente grandi meriti nell'annata della Juve, però paragonarlo al Verona, io non ho grosse simpatie per il giovane Agnelli, però gli farei presente che negli ultimi 2-3 anni forse il City e il Real Madrid hanno speso più della Juve, non credo ci siano molte squadre che abbiamo speso di più, quindi mi sembra un po' azzardato, ecco, mi sembra che sia più bravo quando allena la squadra che quando vada in conferenza stampa, spesso almeno. Grazie. Sì, sì, grazie a lei Massimo, credo che siamo abbastanza d'accordo. Non lo so, ha detto bene il primo ascoltatore che non è facile perdere, non è facile nemmeno vincere. Conte per me ha già vinto, credo che per tutti abbia già vinto, però lui giustamente, non solo scaramanticamente, ma realisticamente aspetta ancora invece il momento in cui vincerà e dà appuntamento per alcune chicche, mi pare abbia detto, no? Che usciranno allora. Beh, insomma, se sono in proporzione alle chicche che nel frattempo comincia a distribuire, tanto vale allacciare le cinture. Mia nonna Ambrogina, scrive Marina da Milano, a proposito di Zamparini, che se fosse ancora in vita avrebbe 110 anni, direbbe che queste persone, cioè gli Zamparini, sono stati mandati sulla terra per farci sentire migliori e aumentare quindi la fiducia in noi stessi. Non è male questa. Pasquale, Bergamo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno a lei. Sarò velocissimo. Vedo che tutti parlano dello scudetto, no? Juve, Milan e quant'altro. Volevo che lei magari facesse una citazione allo scudetto che ha vinto l'Atalanta. È vero che sono di Bergamo, però... Al bel piazzamento UEFA a cui potrebbe aspirare l'Atalanta se non avesse avuto 6 punti di penalizzazione. Esattamente. Niente, volevo appunto che lei citasse insomma la nostra città, perché veramente la società, la squadra è legatissima al suo popolo e questo è il bello del calcio, cioè sì. Questo legame importante, ecco, la ringrazio molto. Senza esagerare mai Pasquale, perché un anno fa eravate legatissimi a Doni, o no? Sì, ricordo vero, questo, male? Questo è vero, le devo dire solo una cosa, che io ho vissuto un po' l'ambiente, sì. Eravamo legati perché si credeva alla parola di una persona, certo. E quindi poi ci siamo cascati anche noi. Vede, no. Mi auguro, se lei ha qualche notizia magari in più della nostra, che non ci siano altre situazioni che vengano avanti. Perché tenderei ad escluderlo per quello che riguarda questa stagione, credo proprio che lo si possa escludere. Non so se ci sono altri cadaveri nell'armadio che potrebbero costare un prezzo ulteriore, mi auguro di no per l'Atalanta, che certamente per come ha giocato quest'anno, per come si è comportata, non lo merita. Dico sempre solo di andarci un po' piano con le beatificazioni, perché poi per l'appunto c'è il rischio magari di avere bruschi risvegli, come è stato per il popolo atalantino lo scorso anno. L'importante è godersi come si deve l'esito di questa stagione, perché è stato davvero, davvero splendido, e i 52 punti credo che siano quelli dell'Atalanta, quelli davvero conquistati sul campo, sono un numero abbastanza impressionante, cioè con 52 punti l'Atalanta è pari alla Roma, che ha giocato già una partita in più, e a 3 punti sarebbe, no? Perché in realtà i punti poi sono 46, sarebbe ancora in lizza teorica per un posto almeno in Europa League, quindi partendo con l'handicap di meno 6 ha fatto veramente una stagione strepitosa. Da Foggia ha chiamato Roberto, buongiorno. Salve Garanzini. Dica. Niente, io non volevo essere ripetitivo, ecco, ma riguardo diciamo un attimo le dichiarazioni di Conte, ecco, volevo solo dire che secondo me lui è uno focoso, è un sanguigno, quindi diciamo che il suo è stato uno sfogo all'ennesima domanda riguardante del giornalista in conferenza riguardante l'episodio di Montari. Cioè io lo vedo sempre molto, io lo ascolto Conte ed è sempre molto garbato, molto educato, quindi secondo me forse lui un po' stremato da questo finale di campionato, da questa situazione che comunque è favorevole alla Juve, ieri ha sbottato, però ecco... Sì, ma questo è possibile, Roberto, quello che lei dice è possibile. Io credo che Tutti noi sottovalutiamo l'usura da microfono e da taccuino, perché per l'appunto nel calcio attuale l'incontro con la stampa è una tortura che ormai è diventata davvero quotidiana, e soprattutto è una tortura che si moltiplica, perché poi ci sono appunto c'è la carta stampata, poi ci sono le televisioni, oppure prima ci sono gli uni, poi ci sono gli altri, tutti i santi giorni. Ed è chiaro che poi c'è chi, non dico provoca, ma insomma un minimo sfruculia, ecco, anche se non è un verbo italianissimo, però rende l'idea. Non è facile resistere a questo tipo di pressioni, però è anche vero che quando hai lo stress ancora alto, e sono d'accordo, ma insomma dovresti cominciare ad avere la forza dei nervi distesi, perché comunque l'obiettivo è raggiunto, è praticamente raggiunto, magari uno si aspetta toni più morbidi, ma soprattutto paragoni non fuori luogo, ecco, perché quello col Verona davvero non è che sia offensivo nei confronti di alcuno, nemmeno del Verona, però insomma davvero ci sta pochino, no? Perché davvero, no? Insomma, non direi che quello non sta in piedi, e allora piuttosto qualche no comment in più, a parer mio, ripeto, ma poi non è così facile. Ed ecco a voi Marco Bellinazzo, non nello splendore dei 90 mm, ma insomma i microfoni. Ciao Gigi, buongiorno. Ciao Marco. Dunque, senti, gli ascoltatori ricorderanno, e qualcuno me l'ha anche ricordato per iscritto, ma non dovevate oggi parlare di riassumere la situazione di bilanci e quindi anche di prospettive, di possibilità di investimenti per le squadre di seconda fascia? È verissimo, mercoledì scorso Juventus Inter e Milan, e appuntamento a oggi per le squadre di seconda fascia, appuntamento al prossimo giovedì, direi, perché il calendario ritorna normale, invece per il resto del gruppo. Una domanda solo iniziale, perché mi arriva da un ascoltatore, Piero da Torino, che mi dice, mi chiama Esimio, però, quindi la cita vuole dire Esimio. Solo per correttezza, l'ultimo bilancio Juve è stato chiuso con una perdita di 36 milioni di euro. Io ho detto 95. No, chi ha ragione? E l'ultimo bilancio della Juve è stato chiuso con circa 90 milioni di rosso, beh, 87 sono ora, milione più, milione meno, è quello. Parliamo del bilancio chiuso al 30 giugno 2011. Poi, siccome la Juve è quotata, ci sono ogni tanto le trimestrali, e lì si registra effettivamente una perdita che però riguarda il trimestre di riferimento, quindi magari il nostro ascoltatore ha visto uno degli ultimi trimestri, ecco. Molto bene, allora arriviamo a io oggi mi pare che in menù ci siano Napoli, Lazio, Roma e Udinese. Beh, le squadre che stanno lottando per il terzo posto, inclusa l'Inter, e tra l'altro è importante questo tipo di valutazione giunti a questo punto del campionato, perché è stato uno degli allenatori che sta lottando per la qualificazione alla Champions, Guidolin, a tirare in ballo proprio i fatturati. Cioè, qualche giorno fa in un'intervista Guidolin ha detto insomma, ci mettete tra le squadre candidate ad accedere alla Champions, ma guardate insomma che noi gareggiamo però con le mani legate dietro, abbiamo un fatturato sicuramente molto inferiore a quella delle nostre dirette concorrenti, il che è vero, ma fino a un certo punto, perché è vero che l'Udinese ha un fatturato, diciamo così, ordinario, che facciamo riferimento sempre ai bilanci chiusi gli ultimi al 30 giugno 2011, di circa 50 milioni, 54 milioni di euro, ma è anche vero che l'Udinese è una fabbrica di talenti, una fabbrica di giocatori che garantiscono ricche plusvalenze alla fine di ogni stagione, in particolare quella chiusa appunto nel 2011, quel calciomercato ha garantito 46 milioni di plusvalenze, che quindi portano diciamo l'insieme del fatturato dei ricavi a quasi 100 milioni, che non sono da disprezzare. Peraltro il prossimo bilancio potrà godere della tripletta messa a segno dalla famiglia Pozzo nello scorso calciomercato, cioè la vendita di Sanchez, Hiller e Zapata, con circa 50 milioni di euro di entrate straordinarie. C'è tutta una disputa con la FIGC e con alcuni osservatori per cui le plusvalenze forse devono essere, considerando le entrate straordinarie, devono essere messe fuori dai ricavi, ma insomma io preferisco inserirle, perché per me il calciomercato è un'attività ordinaria delle squadre di calcio, quindi può garantire entrate che, l'Udinese lo dimostra, sono strutturali in qualche modo. Per cui l'Udinese avrebbe, facendo questo tipo di valutazione, un fatturato anche inferiore, inferiore sicuramente al Napoli, che al 30 giugno 2011 aveva un fatturato di 122 milioni più 9 di plusvalenza, quindi 130 milioni, e sicuramente inferiore alla Roma, che invece ha 124 milioni, ma superiore per esempio alla Lazio, che arriva a 80 milioni di fatturato ed è forse la squadra che realmente sta facendo dei miracoli, sì, con la gestione Lotito. Tutte queste squadre hanno un fatturato che però impallidisce di fronte a quello dell'Inter, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma è che è giusto ricordare che è di 260 milioni, considerati anche 25 milioni di plusvalenze legate diciamo a una serie di operazioni di mercato, tra cui quella di Eto'o, che molti ricorderanno, insomma, come che no, potrà sicuramente diciamo riportare, si spera prima o poi, in linea di galleggiamento il bilancio dell'Inter, che invece è rosso cronico e che ha fatto registrare, ricordiamo, una perdita di 83 milioni che si avvicina ma non supera quella della Juventus. A proposito di bilanci virtuosi, brevissima parentesi, messaggio Valerio: secondo me Conte voleva dire che allora era inaspettato lo scudetto al Verona, come è inaspettato se arriverà alla Juve. Ma è verissimo, il senso era quello, Valerio. Infatti, da questo punto di vista, Conte ha detto una cosa abbastanza logica, da quello strettissimo punto di vista. Poi, la differenza qual è, che rende secondo me questa frase una discreta sciocchezza, è che per quanto sia inaspettato uno scudetto alla Juventus, una volta che va in testa alla classifica o che è lì a lottare, ma già a ottobre o già a novembre, automaticamente risaltano fuori i 27 o 29 scudetti, per cui torna immediatamente a essere la squadra che ha vinto più scudetti di tutti in Italia. Il Verona invece rimane, anche se è prima, la penultima giornata, rimane la squadra che non ha mai vinto e non vincerà mai più, e quindi non ci può stare e basta, secondo me. Dunque, l'Udinese abbiamo detto, passiamo in realtà in rassegna una profonda differenza che esiste per esempio tra l'Udinese, il Napoli e la Lazio, e l'Inter e la Roma dall'altro canto, è il tipo di gestione che hanno, e quindi la capacità di produrre utili, sia pure molto limitati, rispetto invece alle big, no, Inter e Roma. Se l'Inter, abbiamo detto, ha chiuso a meno 83 l'ultimo bilancio, la Roma lo ha chiuso a meno 30, sempre qui 30 giugno 2011, sì, per non creare confusione, sì, mentre il Napoli ha chiuso l'ultimo bilancio con 4 milioni di utile, l'Udinese con circa 3 milioni di utile e la Lazio con 600 mila euro di utile, che comunque rappresentano un bel risultato in un calcio che produce invece perdite in linea di massima, insomma, spalmate su quasi tutte le squadre. E un'altra differenza importante che spiega questa capacità, no, di queste squadre di realizzare comunque una gestione virtuosa è il tetto dei salari. Se l'Inter spende in salari 167 milioni su un fatturato di 262, comprese le plusvalenze, e la Roma 105 milioni, invece il Napoli è riuscito a tenere ancora abbastanza bassi gli ingaggi, che sono arrivati l'anno scorso a 46 milioni, erano 35 l'anno prima. L'Udinese spende in salari appena 25 milioni su un fatturato che, abbiamo detto, può raggiungere anche i 100 milioni, ma che, se consideriamo anche la gestione ordinaria, comunque sotto quella percentuale del 50% che rappresenta l'optimum. E la Lazio spende in salari 36 milioni, lo Tito sappiamo, beh, che certo, è stato sempre parsimonioso dal punto di vista degli ingaggi, e questo consente di tenere molto bassi i costi generali. La Lazio ha 60 milioni di costi, l'Udinese 76, tra cui 15 legati allo scouting, ecco che certo, è una spesa virtuosa, no? E potrebbe essere anche scalata dal fair play finanziario, mentre il Napoli per esempio ha costi piuttosto alti, 115 milioni, legati soprattutto agli ammortamenti, cioè al carico legato all'acquisto dei cartellini spalmato anno per anno. Questo significa, certo, appunto, che gli investimenti fatti nelle ultime stagioni da De Laurentiis cominciano un po' a pesare sul bilancio, ed ecco perché invece diventa fondamentale arrivare a quel terzo posto, che significa non solo accedere direttamente almeno al 30 milioni, 25 milioni di euro, che è il bottino che si raggranella nei gironi, però c'è il preliminare per il terzo posto quest'anno. Sì, quindi, io sì, tu lo hai per scontato. Stavo per scontato in qualche modo che una squadra italiana possa superarla. Hai ragione, visto che No, per carità, questo è ovviamente non solo è nei voti, ma è anche nella logica delle cose. Ma non sono poche le volte in cui ultimamente la squadra italiana che ha che deve giocarsi lo spareggio preliminare estivo, poi si ferma lì. Però parliamo anche di, come dire, opportunità. E sì, accedere ai preliminari, avere l'opportunità di concorrere, significa anche toglierla alle altre squadre, alle dirette concorrenti, e quindi evitare che si rafforzino sul terreno interno. Facciamo un esempio molto, molto semplice: se l'Inter avesse la possibilità effettivamente di giocarsi il preliminare e quindi di accedere, ripetiamo, a questo bottino di 30 milioni di euro, privandone squadre come il Napoli, ecco che quella clausola rescissoria legata al contratto di Lavezzi, sì, per esempio, diventerebbe molto più abbordabile. Da qui la grande ressa che c'è in questo momento. Oggi sono partite decisive, insomma, gli incroci, in particolare Lazio-Inter dell'ultima giornata, insomma, saranno sicuramente decisivi, ma oltre ai risultati sportivi, qui lo ripetiamo sempre, c'è da tenere conto dei bilanci e anche dei punti che si ottengono in fatto di conti, no? Non c'è dubbio. Egidio insiste sull'argomento di prima: la quota Juve Scudetto era 8, quindi qualcosa questo vuol dire. Certo, Egidio, era 8, non era certamente la favorita, la vigilia, l'abbiamo detto per mesi ed è tuttora vero. La quota Scudetto del Verona nell'85, se allora fossero esistite le quote, sarebbe stata 200, non meno. Quindi faccia lei i debiti paragoni e ricontinuiamo con Marco Bellinazzo. Siamo arrivati a... Abbiamo fatto un po' il quadro generale, insomma, abbiamo parlato in particolare di Napoli, Udinese e Lazio. Sulla Roma possiamo aggiungere che anche qui ci sono costi piuttosto alti di gestione, legati però prevalentemente, a differenza del Napoli, ai salari pagati ogni anno piuttosto che agli ammortamenti. Ma anche i contratti nuovi, quindi... Chiudendosi questo bilancio al 30 giugno 2011, rappresentano quelli della vecchia gestione. Certo. Vedremo i prossimi, e quindi questa attività, ovviamente, che c'è stato di taglio degli ingaggi e di ringiovanimento della rosa. C'è da dire che proprio il passaggio dalla vecchia gestione a quella stelle e strisce rappresenta sicuramente un'opportunità, ma è stata una necessità, perché considera che, per esempio, con quei risultati il patrimonio netto della Roma era sceso a meno 40 milioni, da qui la necessità di queste ricapitalizzazioni, mentre Napoli ha un patrimonio netto di 30 milioni, l'Udinese di 40 e la Lazio di addirittura di 80 milioni, 83 milioni, che rappresentano evidentemente la voce finale di un tipo di gestione molto oculata, che spesso crea polemiche nella tifoseria laziale, che vorrebbero un lotito più generoso nella campagna acquisti, però evidentemente permettono alla Lazio, che ha un bacino di utenza sicuramente inferiore a quella delle big italiane, però di concorrere da due anni alla lotta Champions. Assolutamente. Chiuderemo questo argomento subito dopo l'intervallo con una proiezione, direi finanziaria ma anche tecnica, per vedere, di indovinare un pochino le possibilità in prospettiva di queste quattro squadre, alla luce del bilancio e alla luce di come è andato, come sta andando questa stagione. Certo, il traguardo del terzo posto che tu dicevi cambia e non di poco le cose, ma insomma potrebbe anche non cambiarlo del tutto. Ecco, dicevo, Marco Bellinazzo, per fare una sintesi di questo dotto intervento, e ripeto, il prossimo giovedì sarà poi dedicato al resto del campionato, magari avremo anche qualche idea in più su neopromosse eventuali, quindi si può fare una proiezione allargata. Adesso invece la curiosità era questa: questi sono i bilanci, questi sono i numeri, questi sono gli obiettivi, queste sono le proiezioni. La Lazio grosso modo è in asse rispetto a quello che pensava, il Napoli più o meno pure, sia pure con cosa, l'Inter è certamente reduce da una stagione, adesso è chiaro che il terzo posto qualcosa salverebbe, ma è una stagione fallimentare in ogni caso. Ma sono tutte squadre che la stessa Inter, io credo, possono puntare a dei restyling di un certo genere. Invece la Roma rischia di dover cambiare, almeno dal mio punto di vista, davvero progetto. di guida tecnica, di e la Roma ha acquistato molti calciatori per un certo tipo di calcio che adesso potrebbe non essere più quello, potrebbe non funzionare. Questo cosa significa o potrebbe significare in termini economico-finanziari? Beh, sarebbe un errore gravissimo. La Roma ha fatto un progetto industriale, un vero e proprio progetto industriale che ha come guida Luis Enrique, ed ha acquistato, se proprio vogliamo fare un parallelo, forse brutto, ma insomma dei beni strumentali, delle macchine, in questo caso sono calciatori, adatti a quel tipo di produzione che si voleva fare, un certo tipo di calcio, un certo tipo di anche voglio dire di spettacolo. Che è legato poi agli investimenti fatti in termini di marketing, no? Di accordi con la Disney, cioè rendere il gioco della Roma piacevole, esportabile e dunque valorizzare il marchio. È questo che è il progetto Roma. Ora, fermarsi dopo il primo anno, cambiare tutto, mandare via Luis Enrique, significa cambiare il progetto industriale, e di solito quando un'impresa cambia dopo appena un anno il progetto industriale, fatto su almeno 2 o 3 anni, perché su 2 o 3 anni si fanno i veri progetti industriali, significa buttare a mare tutto, ritrovarsi con tanti ingaggi non così onerosi come in passato, ma comunque tanti ingaggi fatti per giocatori che magari poi non servono più, e ricominciare un ciclo che significa poi avere una speranza di riportare a Roma dei successi che si allunga a 4-5 anni anziché magari fra un paio d'anni. Certo, fa un po' impressione, sinceramente, l'espressione progetto industriale applicata al calcio, però è una risposta non solo dotta ma perfetta, nel senso che mi aiuta davvero a capire che cosa significa e perché la Roma invece dovrebbe provare ad insistere, poi fino al suicidio finale, ma provare ad andare avanti su questo progetto. E forse anche, visto quello che dicevi del progetto spettacolo, di queste cose, questo mi comincia anche a far capire perché inizia a circolare il nome di Zeman come eventuale alternativa, no? Nel caso Luis Enrique se ne volesse andare, e io ci credo. Il Barcellona, Gigi, nel 2003 ha chiuso un bilancio a meno 73 milioni, ha cambiato gestione, ha immaginato il futuro, ha fatto un progetto come quello legato a Luis Enrique e ha riportato non solo il bilancio in utile dopo 2 anni, ma ha instaurato un ciclo virtuoso che ha portato il Barcellona a essere quello che oggi tutti conosciamo. Mi sembra un buon augurio da fare a una Roma e a dei romanisti che oggi sono, da quest'anno, oggettivamente delusi. Poi forse in misura eccessiva rispetto alle attese che non dovevano avere così alte, ma insomma è una buona consolazione. Allora, grazie a Marco Bellinazzo per questo intervento di oggi. L'appuntamento è già fissato per la prossima settimana per il panorama economico-finanziario sul resto del campionato. Adesso noi andiamo a sentire che cosa Nicola Filippone ha scovato per questo 2 maggio. Sembra ieri. 2 maggio 1982. Dopo una squalifica di 2 anni a causa del calcio scommesse, l'attaccante Paolo Rossi rientra in campo. Non indossa più la maglia del Perugia, ma quella della Juventus, dove aveva già militato nel settore giovanile. I bianconeri, lanciati verso il 20° scudetto, sono impegnati in casa dell'Udinese. Rossi ripaga la fiducia di Trapattoni, che lo aveva preferito a Galderisi, contribuendo con un gol di testa su cross di Bredi all'1-5 finale. Un ritorno incoraggiante, anche se appare evidente che l'ex talento del Real Vicenza non ha ancora lo smalto dei giorni migliori. Ma il commissario tecnico Berzot, sfidando una perplessità diffusa, ha già deciso in cuor suo di puntare su di lui per i mondiali che si terranno il mese successivo in Spagna. Beh, è difficile dimenticare, per chi c'era quel giorno allo stadio Friuli di Udine, come il sottoscritto, è difficile dimenticare la suggestione di quel pomeriggio, perché insomma 2 anni di squalifica a uno che si chiamava Paolo Rossi e che era stato uno degli artefici del 4° posto in Argentina, che avrebbe potuto anche essere di più, che era il capocannoniere di quell'epoca, che era un personaggio, un grande personaggio, non solo un grande calciatore. 2 anni di squalifica per calcio scommesse, il giorno che rientra proprio a 3 settimane dall'inizio del ritiro del Mondiale 82, garantisco che quel giorno c'era una certa temperatura in quello stadio a Udine. Mi segnala anche Nicola Filippone che quel giorno, il 2 maggio, dello stesso giorno, cioè 2 maggio 82, debuttò su una panchina professionistica Emiliano Mondonico. Nel campionato di Serie B allenava la Cremonese, che pareggiò 1-1 a Lecce con un gol di Vialli, pensate, per la per la Cremonese. Vanni ha chiamato da Forlì, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Pronto, buongiorno, mi scusi se disturbo. Intanto complimenti per la trasmissione. Eccolo là. Le volevo dire una cosa, per tornare un po' indietro sul discorso di Conte. Sì. E, mi deve scusare, ma se a Conte si può fare una critica, magari la si può fare su quello che aveva detto degli arbitri nel momento in cui la Juve era meno in forma. Non sicuramente adesso, perché non fa altro che rispondere Allegri. Sinceramente, dopo che Allegri ha detto a tutti di stare zitti perché non era il caso di parlare, poi ha parlato continuamente per l'ennesima volta, 10 volte come minimo, di questo famosissimo gol. Sì, ma un giorno uno però può anche smettere di rispondere, insomma, no Vanni, che dice? Oppure va avanti all'infinito. Un giorno uno può anche alla domanda sul gol di Muntari può anche dire, ma ha segnato anche ieri, adesso faccio un esempio, ma ha fatto gol anche ieri Muntari, ma sai che non me ne sono accorto, adesso ne dico una, la prima, la seconda volta, la terza, questa domanda non te la fanno più e comunque se c'è uno che in questo momento sta sbagliando su un altro versante non è necessario andargli dietro, non credo sia una prescrizione medica. Luigi, provincia di Lecco, buongiorno. Sì, buongiorno, sarò velocissimo, due cose ancora su Conte. Io da juventino mi ha dato fastidio quando si è lamentato dopo Siena e Parma, perché io penso che se vuoi vincere lo scudetto Juventus con Siena e Parma devi vincere al di là del rigore non dato. Per quanto riguarda il paragone con Verona, io lo trovo un po' più adeguato di lei, nel senso che molti così osservatori del calcio italiano dopo il Calciopoli avevano detto che la Juventus non avrebbe mai più non vinto lo scudetto ma neanche potuto lottare per lo scudetto. Vabbè, insomma, cioè, io me li porti questi, perché me li segnali, mi dia i nomi e le testate, perché insomma, se io capisco che si scrivano e si dicano delle fesserie, ma questa sinceramente era abbastanza enorme. Io posso pensare che si sia detto, che si sia scritto che la Juventus avrebbe impiegato un certo periodo di tempo per tornare in alto, e l'ha impiegato, e come, perché sono 6 anni da Calciopoli, quindi non è che ci ha messo poi così poco, cioè sono passati degli anni. Ma se uno, un conto era dire ci vorrà del tempo, un conto era dire la Juventus non vincerà mai più, poteva essere solo un tifoso avversario non perfettamente sano di mente, io credo. Ascolterei a questo punto chi? Ascolterei Stramaccioni, perché dopo la vittoria del Napoli, insomma io credo che Napoli e Inter, così a spanne, a occhio, siano nel quale destinate a giocarsi il terzo posto, anche perché insomma credo che godano di un certo fascino, più fascino rispetto a Lazio e a Lazio Udinese. Ho detto fascino e poi ciascuno capisce come gli pare, e quindi credo che alla fine sarà un duello tra Napoli e Inter. Il Napoli ha battuto ieri sera, sentiamo come risponde oggi Stramaccioni alla vigilia della trasferta di Parma. Che mi dà la carica, il complimenti del presidente. Gli altri complimenti fanno molto piacere, però secondo me nel mio pacchetto di incoscienza c'è anche il rimanere me stesso. Giampaolo ha delle caratteristiche ben precise, Diego ovviamente è più predisposto al gioco sul corto lontano dai 16 metri. Magari può anche apparire molto più congeniale alla nostra manovra in fase di costruzione qualitativa, ma sono due, l'ho già detto tante volte, sono due bocche da fuoco diverse. Dal primo minuto difficilmente con me li vedremo insieme, e durante la partita può capitare. Grazie ancora a Marco Bellinazzo per la sua partecipazione. Ciao Gigi. Grazie a Franco Piantanini in redazione, a Nicolò Rinaldi in regia. Buon pomeriggio, appuntamento a domani.